Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Ormai avete capito quali sono le storie che ci piacciono nello sport e soprattutto nel calcio. E intanto ci piace conciliare il nostro pubblico maschile con quello femminile, quindi non parliamo mai troppo di gol, di punti, di gol in trasferta in casa, parliamo di uomini. E in questo caso parliamo di un portiere. Il portiere è un ruolo particolare, è sempre stato uno strano il portiere, è uno, ci hanno fatto anche delle poesie, una bellissima di Umberto Saba, è uno isolato dagli altri, che ha ruoli e compiti completamente diversi, è uno che se fa un errore può farti perdere la partita, è sempre stato la mosca bianca nel calcio. E oggi raccontiamo la storia di un grande portiere che in Paraguay è stato considerato un eroe nazionale, anche se in campo insomma non si è fatto proprio volere benissimo, soprattutto dagli avversari. Era un portiere che aveva anche l'istinto del gol. Oggi raccontiamo la storia di José Luis Chilavert. Per certi tipi di attori il palcoscenico perfetto è il Sud America, il luogo in cui il calcio è dominato dalla passione, dal cuore, dove per una partita persa può nascere un dramma nazionale, dove una vittoria può salvare o legittimare un governo. E qui siamo in uno stato veramente particolare del Sud America, il Paraguay. C'è un governo, diciamo conservatore per usare un eufemismo, del generale Alfredo Stroessner, che guida il paese dal 54 fino all'89. È una dittatura in realtà che impedisce al paese di avere contatti economici con l'estero, è uno stato dove c'è il pugno duro della polizia, dove non c'è un partito di opposizione, insomma il Paraguay non è certo il posto migliore nel quale vivere, ma qui nella piccola cittadina di Luque il 27 luglio 1965 nasce José Luis Félix Chilavert González, il più piccolo di quattro fratelli. Io vengo da una famiglia umile, mio padre lavorava. Io vengo da una famiglia umile. Mio padre era un dipendente statale. Non ci mancava niente in casa, ma certo non eravamo ricchi. Per esempio, i vestiti di mio fratello più grande li abbiamo indossati tutti man mano che crescevamo, a meno che non si rompessero prima. Il quarto giorno già si non lo rompia. Famiglia umile, con la passione del calcio, con uno scenario che vi abbiamo raccontato anche in altre occasioni. Bambini che giocano in strada a piedi nudi sognando di diventare grandi calciatori. E un sogno che in realtà tutti e quattro i fratelli Chilavert, con diversi destini, ma riusciranno a realizzare, soprattutto grazie ai consigli del padre. Per riuscire in qualche mestiere devi prima amare quel mestiere e fare di tutto al 100% per avere successo. Però giocare per strada vuol dire anche imparare a farsi rispettare, soprattutto quando sei il più piccolo, quando devi farti accettare dai più grandi. Chilavert vorrebbe giocare con il numero 9, però non c'è posto per lui in attacco. Sono i fratelli che si prendono cura di lui e gli dicono che è meglio che lui stia in porta, così non rischia di farsi male. All'inizio lui non vuole, lo fa di malavoglia, poi si accorge di essere bravo e si conquista un posto sicuro con gli amici. È il portiere della sua piccola squadra. Intanto nel 79 l'Olimpia di Asunción conquista prima la Coppa Libertadores battendo il Boca Junior e poi vince addirittura la Coppa Intercontinentale battendo gli svedesi del Malmo. Insomma, è la squadra del momento e il padre di Chilavert accompagna il figlio per un provino proprio per i campioni dell'Olimpia di Asunción. José Luis ha solo 14 anni. Mio padre mi accompagna all'entrenamento. Mio padre mi accompagnò al provino dove l'allenatore mi fece giocare da attaccante per un quarto d'ora. Io non toccai palla e lui disse a mio padre: la prossima volta non farmi perdere tempo, perché di ragazzini così ne ho visti a migliaia. Non mi haga perdermi tempo. Però nella famiglia Chilavert non è consentito perdersi d'animo. Così il padre accompagna il figlio a un altro provino per la squadra dello Sportivo Luqueño, però questa volta il provino lo fa da portiere José Luis e viene preso dopo un anno, debutterà nel campionato giovanile dove giocherà fino all'83. il miglior posto che è in un equipo è il dell'arquero. Per me, il miglior ruolo in cui giocare in una squadra è quello del portiere. Mi ricordo che quando ero piccolo in Paraguay con la dittatura di Stroessner, che aveva origini tedesche, in televisione trasmettevano tutte le partite della Bundesliga e questa è stata l'unica cosa positiva che mi ha lasciato la dittatura, perché potevo vedere in azione il mio idolo, Toni Schumacher. L'alemán Toni Schumacher. Il falco e il gabbiano. Nel 1984 Chilavert viene acquistato dal Guarani di Asunción. Dopo un anno tutti si sono già accorti di lui. Il San Lorenzo, squadra argentina di Buenos Aires, lo ingaggia subito e lo tiene 4 stagioni. Lui intanto è diventato 1,94 m per 90 kg. Insomma, non è più il bambino fragile che i fratelli dovevano proteggere. Però lui non dimentica del tutto di essere stato un attaccante, di essere nato come attaccante. Insomma, la sua area gli va un po' stretta e quando può butta la palla a terra, va fuori area e naturalmente scatenando i rimproveri dell'allenatore, ma lui si sente sicuro. Lui in realtà vuole emulare un altro grande portiere di cui abbiamo già parlato, il colombiano René Higuita, che al Atletico Nacional di Medellín infiamma il pubblico con le sue prodezze. Però per Chilavert, insomma, non è ancora il momento del grande colpo d'ala, del colpo che fa la differenza. Al San Lorenzo però incontra un allenatore di cui abbiamo parlato anche in questo caso, è Bora Milutinovic, quello che aveva fatto tanti miracoli in Messico, in Costa Rica, negli Stati Uniti, in Nigeria, con tante nazionali. Beh, Chilavert ha un aneddoto che ha raccontato in molte sue interviste e testimonia poi l'inizio del suo grande cambiamento. Alla fine di un allenamento, Bora appoggiò sul prato una serie di lattine e mi chiese di colpirle. Io sistemai il pallone e le feci cadere, una dopo l'altra. Allora Bora prese le sagome della barriera e mi disse di provare a superarla. E fu lì che io imparai a battere le punizioni. Eh sì, Chilavert ha un sinistro potente, ma anche preciso. Comincia a allenarsi a battere le punizioni. Però in Argentina non farà tempo a far vedere di cosa è capace, perché arriva una telefonata dalla Spagna, da Saragozza. E Chilavert verrà acquistato dal Real Saragozza, dove rimane per 3 anni. Anni importanti, perché nell'89 arriva la prima convocazione in nazionale. So, at last the ball can be spotted up, and Chilavert against Higuita, he scores! È il 27 agosto 1989, Paraguay e Colombia sono sull'1-1 in una partita di qualificazione ai mondiali di Italia 90, rigore per il Paraguay. Chilavert sul dischetto, Higuita sulla linea di porta a aspettare. Chilavert farà gol, il primo degli 8 gol che lui segnerà con la maglia biancorossa della nazionale paraguayana. Il Paraguay non si qualificherà per Italia 90, così Chilavert dovrà aspettare fino al 1998, mondiali in Francia. Prima però ci sono i suoi anni al Vélez, la squadra argentina che lo acquista dal Real Saragozza. Si torna in Sud America e qui il genio di Chilavert esplode in tutta la sua potenza. Il Vélez è una squadra molto forte, allenata da Carlos Bianchi, che è un po' l'allenatore giusto per lui, perché gli lascia la libertà per esprimere il suo stile di gioco, palla a terra, con personalità. Poi lui è il rigorista della squadra e poi comincia ad andare nella tre quarti avversari a tirare le punizioni. E il risultato è uno score di tutto rispetto anche per un centrocampista, 48 gol segnati. E ne segue anche un paio su azione. Hay tiro libre para Vélez, lo hace Chilavert queriendo sorprender a Burgo. Gol increíble. Chilavert tomó el tiro libre desde su campo. 3 metros en su campo por lo menos, la pelota voló por arriba de Burgos adelantado. Chilavert convierte un gol para todos los tiempos, un épico gol de Chilavert. E con il solito stile pacato dei telecronisti sudamericani, ascoltiamo cosa succede il 23 marzo 1996. Partita Vélez River Plate, finirà 3-2 per il Vélez. Sull'1-1 c'è un fallo a centrocampo, punizione, la palla viene posizionata dietro alla linea di centrocampo e i giocatori stanno parlando per stabilire una tattica e dalle retrovie arriva Chilavert che, senza parlare con nessuno, senza consultarsi con nessuno, tira una bomba di sinistro che finisce nella porta avversaria con il portiere che viene colto totalmente alla sprovvista. È un gol storico che rimane una perla del calcio mondiale, uno di quei gol che vengono ricordati ancora oggi. E Carlos Bianchi ha costruito una grande squadra con Chilavert dietro ai pali, ma non solo, abbiamo visto dietro ai pali 4 campionati vinti, una Coppa Libertadores, coppe minori nei tornei sudamericani, ma poi anche in Europa si ricordano del Vélez, perché il 1° dicembre del 94 a Tokyo il Milan di Capello sfida il Vélez nella finale di Coppa Intercontinentale. Asegurando la pelota Vélez, qué buena jugada, la querían jugar para Flores, era desde el piso Bastera. Vamos, vamos a dar, va el vamos segundo, a dar. va al final. A ver, Turco, pégale Turco, pégale Turco, lo grito, gol. ¡Gol! ¡Golazo! Questo è il gol del 2-0 segnato da Assad, che sfrutta un retropassaggio di Costa Curta. Il Vélez vince la Coppa. Pochi minuti prima aveva fatto il primo gol su rigore, che questa volta prudentemente non era stato fatto tirare a Chilavert, e con lui che gioiva da solo, come appunto il portiere di Umberto Saba, della poesia di Umberto Saba, lontano guardando i suoi compagni. Saba dice della festa e gli dice anch'io son parte. Ma ci saranno altre occasioni in cui Chilavert avrà bisogno di dimostrare di essere un osso duro col quale è meglio non avere a che fare. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di José Luis Chilavert, portiere paraguayano con l'istinto dell'attaccante, un giocatore dal fisico possente, 90 kg per 1,94 m, un gigante con un fisico da pugile. È uno che assieme al colombiano Higuita ha portato una ventata di novità nel modo di intendere il ruolo di portiere, uno che non amava rimanere relegato nella sua area di porta, era capace di mettere la palla a terra, di avventurarsi, di arrivare a centrocampo, di dettare i tempi dell'azione, un po' un libero avanzato. E anche un portiere con il vizio del gol, perché ha segnato 62 gol in carriera, 45 su rigore, 15 su punizione, 2 su azione. È un paraguayano, però ottiene i successi principali in Argentina nelle squadre di club, poi c'è la ribalta dei mondiali, insomma diventa un personaggio famoso in tutto il mondo, segna 8 gol in nazionale e diventa il leader di quella squadra che giocherà in Francia nel 98 e nel 2002 nei mondiali di Corea e Giappone. 10 stagioni al Vélez e nelle quali vince tutto, si aggiudica per 3 volte il premio come miglior portiere del mondo, e applaudirlo alla cerimonia di consegna di uno di questi premi c'è anche uno dei suoi idoli di bambino, cioè Dino Zoff. Stando in Alemania nel 94, nel 1994 in Germania, dopo aver ritirato il premio che avevo vinto, mi viene incontro una persona e mi abbraccia. Era Dino Zoff, che mi riempie di complimenti, e io dico: no, sono io che posso abbracciare il mio idolo. Ma Zoff mi disse: tu rappresenti la nuova generazione che può giocare la palla anche con i piedi. Noi siamo stati grandi portieri, ma non potevamo uscire dall'area. Eh sì, oggi che c'è il nuovo regolamento, che peraltro ha reso molto più spettacolare il calcio, diciamo quello per il quale non puoi passare la palla indietro al portiere che la prende con le mani per perdere tempo, e il portiere deve imparare a giocare coi piedi, spesso è lui che imbastisce l'azione. Non ci sono più i portieri che quelli che gridano tutti su e poi calciano il pallone il più lontano possibile. E Chilavert in questo è stato un precursore, perché aveva le abilità del portiere ma anche quelle del centrocampista, dell'attaccante, insomma sapeva giocare coi piedi. Un portiere oggi deve avere tre caratteristiche: abilità di gioco e tecnica, sia con le mani sia con i piedi, la sicurezza a livello psicologico, perché spesso la partita dipende dal primo intervento, ma soprattutto una cosa fondamentale per affrontare gli avversari: la personalità. Eh sì, e qui c'è una discussione aperta, cioè Cilavera è stato un grandissimo portiere, però non è stato il giocatore più amato, soprattutto dai suoi avversari, spesso è entrato in polemica con loro, è arrivato anche allo scontro fisico. Molti dicono di lui che era un attaccabrighe. Montoya, Islas, Ruggeri, non io, quello l'argentino, Aspreglia, perfino Maradona dicono di lui, insomma, che il suo carattere non era certo conciliante. Il 3 aprile del 94, al termine della partita Vélez Gimnasia, lui viene accusato di avere picchiato l'allenatore della squadra avversaria, viene condannato a 3 mesi e a 13 giornate di squalifica. Cilavera ha indossato per 14 anni la maglia da portiere della nazionale paraguayana, è diventato il capitano sempre con la sua divisa scura e con la maglia con disegnato sopra il muso di un bulldog. Anche questo fa parte di un personaggio, di questo portiere particolare che abbandona la porta per calciare una punizione o per impostare un'azione. E certe volte i suoi gol sono gol pesanti, come quello realizzato all'Argentina. Muy lejos. Le dico una cosa, Niembro. Ahora, no es muy lejos. Es para Cilavera. Los jugadores argentinos, alguno tendría que quedar en la mitad de la cancha. Están todos defendiendo. Ahí va Cilavera, le entró. De Paraguay. Lo hizo Cilavera de Chilibre. A los 41 minutos y medio, empata el partido. Argentina-Paraguay, 1-1. Lo hizo Cilavera de tiro libre. Fue idea mía en el sentido de. Fu una mia idea. Il bulldog sono io, Cilavera. Io ho la fama di essere un cattivo, come il bulldog, che però è anche un animale molto nobile, che non vuole essere disturbato, altrimenti reagisce, proprio come me. Il bulldog è lo mismo. Beh, anche gli hooligans inglesi hanno il bulldog che li rappresenta, è vero, è un animale nobile ma che si fa rispettare. Comunque in quei mondiali di Francia Cilavera subisce il gol più pesante della sua carriera, è un gol di Laurent Blanc ai supplementari, e in quegli anni c'era il golden goal, cioè quando segnavi era finita la partita. La Francia elimina così il miglior Paraguay mai visto in una competizione internazionale. Tra l'altro una vittoria, quella della Francia, che ci coinvolge, perché poi la Francia incontra l'Italia e la batte ai rigori. Poi ci sono altri mondiali da giocare, quelli del 2002 in Corea e Giappone, però lì Cilavera è invecchiato a qualche chilo di troppo. L'allenatore è Cesare Maldini, che insomma è un po' perplesso dal fisico di Cilavera e non gli lascia tutto lo spazio che Cilavera vorrebbe. E poi lui è reduce da una squalifica pesante, questa perché durante una delle partite di qualificazione col Brasile viene beccato dalle telecamere mentre sputa in faccia Roberto Carlos, che gli aveva detto: ehi Indio, abbiamo vinto 2-0. Considerando che Roberto Carlos è alto almeno 30 cm meno di Cilavera, direi che gli è andata anche bene. E comunque in quel mondiale lui giocherà un paio di partite e terminerà un ciclo che non è stato più ripetuto in quei termini da nessun portiere. Tra il 2000 e il 2002 Cilavera lascia l'Argentina, va di nuovo in Europa, allo Strasburgo in Francia, seconda divisione francese, e però porta lo Strasburgo alla vittoria della Coppa di Francia del 2001. E nel 2002, dopo i mondiali, si presenta agli allenamenti con 13 kg di troppo, falsifica i certificati medici, viene licenziato dallo Strasburgo, torna in Sud America e va in Uruguay, nel Peñarol, vince il campionato, è il suo ultimo trofeo. Poi è arrivato il momento di dire basta, insomma, dopo un'ultima stagione al Vélez nella quale scende in campo solo 6 volte, Cilavera si ritira dal calcio giocato. A differenza di molti suoi colleghi, Cilaver non tenta la carriera da allenatore, il suo carattere insomma era così particolare, presuntuoso, spaccone, attacca brighe, e non era probabilmente adatto per fare l'allenatore. E lui si dedica soprattutto a rilasciare interviste in cui ripercorre tutte le risse verbali nelle quali è stato coinvolto durante la sua carriera, e ribadendo di avere ragione, insomma fedele al suo personaggio. Poi partecipa a un reality, ha dichiarato che gli piacerebbe diventare un giorno presidente del Paraguay, insomma delle buttate che hanno mantenuto vivo quel suo atteggiamento irriverente che ha avuto per tutta la sua carriera. E tra le tante interviste c'è una frase che vogliamo farvi sentire, è una frase che mi sembra un'osservazione precisa di quello che è diventato oggi il calcio moderno, ben diverso da quello che giocava lui. Entonces, a mí lo que más me preoccupa. A me quel che più preoccupa e sorprende è che oggigiorno i calciatori vogliono avere auto lussuose, contratti miliardari, vogliono uscire tutte le sere, magari accompagnandosi alle modelle più belle, e si stupiscono di non giocare sempre al massimo. Per noi sportivi la cosa più importante sono i 90 minuti in cui scendiamo in campo. Sono 90 minuti. Beh, delle parole insomma, insolitamente sagge, dette da un giocatore che è stato molto discusso, che ha pagato anche prezzi salati per le sue frasi eccessive, però non ha mai fatto parlare di sé per faccende che non fossero inerenti al calcio. Cilaver di sicuro ha rappresentato un agonismo tipico di certi giocatori sudamericani e ha rappresentato una sorta di poesia che è quella che ci fa rimanere innamorati di questo sport, una poesia nella quale anche un portiere può fare gol e fare impazzire di gioia i suoi tifosi. A volte il colpo d'ala può essere anche questo, spingersi fuori dalla propria area per impostare un'azione o andare a battere una punizione e fare gol. Questa è la vita di José Luis Cilaver. Noi vi aspettiamo con altre storie, segnalateci via mail al falcoegabbiano@radio24.it se volete che noi ci racconti qualcosa che vi sta a cuore, oppure interagite con me sul sito di Radio 24, sul mio Facebook, sul mio Twitter, sui nostri social, insomma se mi cercate mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.